di qualsiasi genere, di ciò che è in alto nei cieli, di ciò che è in basso sulla terra e di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non li adorerai e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce l'iniquità dei padri sui figli, sulla terza e quarta generazione di coloro che mi odiano, ma fa grazia fino alla millesima generazione di coloro che mi amano e osservano i miei precetti. Non ti servirai del nome del Signore tuo Dio per la menzogna, poiché il Signore non lascia impunito chi si serve del suo nome per la menzogna. Osserva il giorno del sabato per santificarlo, come ti ha ordinato il Signore tuo Dio. Per 6 giorni lavorerai e farai tutte le tue opere, ma il 7° giorno è il sabato per il Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il forestiero che si trova entro le tue porte, affinché si riposi il tuo servo e la tua serva come te. Ricorda che sei stato servo nella terra d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano forte e braccio steso. Perciò il Signore tuo Dio ti ha ordinato di celebrare il giorno del sabato. Onora tuo padre e tua madre, come ti ha ordinato il Signore tuo Dio, affinché prolunghi i tuoi giorni e sii felice sul suolo che il Signore tuo Dio ti dona. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non renderai una testimonianza falsa contro il tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo. Non bramerai la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, e nulla di quanto è del tuo prossimo. Queste parole, disse il Signore a tutta la vostra assemblea sul monte, in mezzo al fuoco, alle nubi e ai nembi. Voce grande. Non aggiunse altro. Le scrisse su 2 tavole di pietra e le diede a me. Quando voi udiste la voce di mezzo alle tenebre, mentre il monte era in fiamme, si avvicinarono a me tutti i vostri capi tribù e anziani e mi dissero: «Il Signore nostro Dio ci ha mostrato la sua gloria e la sua grandezza e abbiamo udito la sua voce di mezzo al fuoco. Oggi abbiamo visto che Dio può parlare all'uomo e questi rimanere vivo. Ma ora perché dovremmo morire? Questo gran fuoco infatti ci divorerà. Se noi continuiamo a udire la voce del Signore nostro Dio, moriremo. Perché? Chi è fra tutti i mortali che come noi abbia udito la voce del Dio vivo che parla in mezzo al fuoco e sia rimasto vivo? Accostati tu e ascolta tutto ciò che dirà il Signore nostro Dio. Tu ripeterai a noi tutto ciò che ti avrà detto il Signore nostro Dio e noi ascolteremo ed eseguiremo. Il Signore udì il suono delle vostre parole mentre voi mi parlavate

che videro i tuoi occhi. In 70 persone sono discesi i tuoi padri in Egitto, e ora il Signore tuo Dio ti ha reso numeroso come le stelle del cielo. Amerai il Signore tuo Dio e custodirai le sue leggi, le sue prescrizioni, i suoi decreti e i suoi precetti ogni giorno. Oggi voi conoscete, e non i vostri figli, che non hanno conosciuto e visto la disciplina del Signore vostro Dio, la sua grandezza, la sua mano forte e il suo braccio teso. I segni e le opere che ha compiuto in mezzo all'Egitto contro il Faraone, re d'Egitto, e contro tutta la sua terra, ciò che ha fatto all'esercito d'Egitto, ai suoi cavalli e ai suoi carri, facendo rifluire su di essi le acque del Mar Rosso mentre vi stavano inseguendo, e li ha annientati fino ad oggi. Quanto fece per voi nel deserto fino al vostro arrivo in questo luogo. Ciò che fece a Datan e a Biram, figli di Eliab, figlio di Ruben, quando la terra aprì la sua bocca e li inghiottì con le famiglie, le tende e ciò che apparteneva ad essi in mezzo a tutto Israele. I vostri occhi hanno visto tutte le grandi opere che il Signore ha compiuto. Osserverete tutto l'ordinamento che oggi vi prescrivo, perché siate forti e andiate a conquistare la terra in cui passate per conquistarla, affinché prolunghiate i vostri giorni sul suolo che il Signore ha giurato ai vostri padri di dare loro e alla loro discendenza, terra dove scorre latte e miele. Poiché la terra che tu vai a conquistare non è come la terra d'Egitto, donde siete usciti, dove seminavi la tua semente e poi la irrigavi con il piede come un giardino da erbaggi. Invece la terra che andate a conquistare è una terra di montagne e di valli che si disseta di acqua con la pioggia del cielo, una terra di cui il Signore tuo Dio ha cura. Continuamente sono su di essa gli occhi del Signore tuo Dio, dall'inizio dell'anno fino al suo termine. Se veramente ascolterete i precetti che oggi vi prescrivo, amando il Signore vostro Dio e servendolo con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima, darò la pioggia alla vostra terra al suo tempo, la prima pioggia e l'ultima. Così raccoglierai il tuo frumento, il tuo mosto e il tuo olio, e darò erba al tuo campo per il tuo bestiame. Tu mangerai e ti sazierai. Badate a voi che non sia sedotto il vostro cuore, deviando, servendo altri dei e prostrandovi innanzi a loro. Si accenderebbe l'ira del Signore contro di voi, chiuderebbe il cielo, non vi sarebbe più pioggia, il suolo non darebbe più i suoi prodotti e perireste presto dalla buona terra che il Signore vi dona. Porrete queste mie parole sul vostro cuore e sulla vostra anima. Le legherete come segno sulle vostre mani e saranno come una fascia tra i vostri occhi. Le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando ti trovi in casa, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando sei in piedi. Le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte, perché si prolunghino i vostri giorni e i giorni dei vostri figli come i giorni del cielo sopra la terra, sul suolo che il Signore ha giurato ai vostri padri di dar loro. Poiché se veramente osserverete tutti questi ordini che vi prescrivo di praticare, amando il Signore vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e aderendo a Lui, il Signore spossesserà tutte quelle nazioni innanzi a voi e voi conquisterete nazioni più grandi e forti di voi. Vostro sarà ogni luogo che la pianta dei vostri piedi calcherà. I vostri confini

e salverà la propria vita. Il vendicatore del sangue, con il cuore infuriato, non insegua l'omicida e non lo raggiunga, se il cammino è lungo per colpirlo a morte. Non è passibile di morte, perché prima non aveva odio contro di lui. Per questo ti ordino, scegliti 3 città. Se il Signore tuo Dio amplierà i tuoi confini, come ha giurato ai tuoi padri, e ti concederà tutta la terra che ha promesso di dare ai tuoi padri, qualora tu abbia osservato, mettendoli in pratica, tutti questi precetti che oggi ti prescrivo, amando il Signore tuo Dio e camminando per le sue vie ogni giorno, allora aggiungerai altre 3 città a quelle 3. E non si spargerà sangue innocente in mezzo alla terra che il Signore tuo Dio ti dona in eredità. Ci sarebbe sangue sopra di te. Ma se c'è un uomo che odia il suo compagno e gli tende un'insidia, si leva contro di lui, lo colpisce e quegli muore, ed egli poi si rifugia in una di quelle città, gli anziani della sua città manderanno a prenderlo di là e lo consegneranno in mano al vendicatore del sangue e morirà. Il tuo occhio non avrà misericordia di lui, ma sradicherai ogni attentato contro il sangue innocente da Israele e sarai felice. Non sposterai i confini del tuo vicino, posti dai tuoi antenati, nella proprietà che erediterai nella terra che il Signore tuo Dio ti dona in possesso. Non si leverà un testimonio solo contro un uomo per una qualsiasi colpa e per un qualsiasi peccato. Qualsiasi peccato uno abbia commesso, il fatto sarà stabilito sulla parola di 2 o di 3 testimoni. Se si leva un testimonio ingiusto contro un uomo per accusarlo di ribellione, i 2 uomini fra cui vi è contesa compariranno al cospetto del Signore, davanti ai sacerdoti e ai giudici che saranno in funzione in quei giorni. I giudici indagheranno con cura, e se il testimone è menzognero ed ha accusato falsamente il fratello, farete a lui quanto meditava di fare al fratello. Estirperai il male in mezzo a te. Gli altri ne sentiranno parlare, ne avranno paura e non commetteranno di nuovo un'azione malvagia come questa in mezzo a te. Il tuo occhio non avrà misericordia. Persona per persona, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede. Quando andrai in guerra contro i tuoi nemici e vedrai cavalli, carri e un popolo più numeroso di te, non ne aver paura, perché il Signore tuo Dio è con te, Lui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Quando sarete vicini alla battaglia, si accosterà il sacerdote, parlerà al popolo e dirà loro: «Ascolta, Israele, voi che state oggi per combattere contro i vostri nemici, non venga meno il vostro cuore, non abbiate paura, non spaventatevi e non tremate davanti a loro. Perché il Signore vostro Dio avanza con voi per combattere contro i vostri nemici, per salvarvi. I capi diranno al popolo: chi è l'uomo che ha costruito una casa nuova e non l'ha inaugurata? Vada e ritorni a casa sua, perché non muoia in battaglia e un altro la inauguri. Chi è l'uomo che ha piantato una vigna e non ne ha colto i primi frutti? Vada e ritorni a casa sua, perché non muoia in battaglia e un altro ne colga i primi frutti. Chi è l'uomo che si è fidanzato con una donna e non l'ha ancora presa con sé?

Se vedi tra i prigionieri una donna di avvenente figura e sei preso d'amore verso di lei, te la prenderai in moglie e la condurrai in casa tua. Essa si raderà il capo, si taglierà le unghie, deporrà la veste di prigioniera, abiterà nella tua casa e piangerà suo padre e sua madre per un mese. Dopo entrerai da lei, sarai suo marito e lei sarà tua moglie. Se poi non provi più amore a suo riguardo, la lascerai andare per suo conto. Non potrai venderla per denaro e non potrai trattarla con prepotenza perché tu l'hai umiliata. Quando un uomo ha due mogli, una amata e l'altra odiata, e gli generano figli l'amata e l'odiata, se il figlio primogenito è dell'odiata, nel giorno in cui distribuisce i suoi beni in eredità ai figli, non gli sarà lecito assegnare la primogenitura al figlio dell'amata anziché al figlio dell'odiata, che è il primogenito. Ma riconoscerà come primogenito il figlio dell'odiata, dandogli una parte doppia su quanto possiede. È la primizia del suo vigore, perciò ha diritto alla primogenitura. Quando un uomo ha un figlio caparbio e ribelle, che non ascolta né la voce del padre né la voce della madre, e anche castigato non dà loro ascolto, il padre e la madre lo prenderanno e lo condurranno dagli anziani della loro città alla porta del luogo dove abita, e diranno agli anziani della città: questo nostro figlio è caparbio e ribelle e non ascolta la nostra voce, è vizioso e bevitore. Allora lo lapideranno tutti gli uomini della sua città e morirà. Sradicherai il male in mezzo a te. Tutto Israele ne sentirà parlare e ne avrà timore. Quando un uomo ha commesso un peccato che merita la pena capitale, è stato messo a morte e tu l'hai appeso a un albero, il suo cadavere non passi la notte sull'albero. Lo devi seppellire in quello stesso giorno, perché un impiccato è una maledizione di Dio, e tu non devi contaminare il suolo che il Signore tuo Dio ti dona in eredità. Se vedi un capo di bestiame minuto o di bestiame grosso di un tuo fratello che si erano smarriti, non tirarti indietro. Riportali al tuo fratello. Se tuo fratello non è tuo vicino e tu non lo conosci, raccogli l'animale in casa tua. Starà con te finché tuo fratello non lo cerchi, allora glielo renderai. Così farai per il suo asino, così farai per il suo mantello, così farai per ogni oggetto smarrito da tuo fratello e che tu hai ritrovato. Non puoi disinteressartene. Se vedi che l'asino o il bue di tuo fratello sono caduti sulla strada, non disinteressartene. Assieme con lui cercherai di rialzarli. Una donna non porterà indumento da uomo, né un uomo indosserà una veste da donna, perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore tuo Dio. Se trovi un nido d'uccello davanti a te per via, su un albero o per terra, con gli uccellini o con le uova, mentre la madre giace sugli uccellini o sulle uova, non prenderai la madre coi figli. Lascia andar via la madre e prenditi i figli, affinché tu sia felice e prolunghi i tuoi giorni. Quando edificherai una casa nuova, farai un parapetto alla terrazza, così non porrai sangue sulla tua casa se qualcuno cadrà giù. Non seminerai nella tua vigna semi di due specie, affinché non diventi sacra tutta la produzione, la semente che tu hai seminato e il prodotto della vigna. Non arerai con un bue e un asino insieme.

ti farà prosperare in ogni opera delle tue mani, nel frutto del tuo seno, nel frutto del tuo bestiame e nel frutto della tua terra per il tuo bene. Perché il Signore tornerà a gioire per te del tuo bene, come gioì per i tuoi padri, se ascolti la voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi precetti e i suoi ordini scritti in questo libro della legge, se ritorni al Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Questo comandamento che oggi ti ordino non è eccessivo per te e non è inaccessibile. Non è in cielo perché tu dica: chi per noi salirà in cielo, ce lo prenderà e ce lo farà ascoltare affinché lo mettiamo in pratica? Non è al di là del mare perché tu dica: chi passerà per noi al di là del mare, ce lo prenderà e ce lo farà ascoltare affinché lo mettiamo in pratica? Perché la parola ti è molto vicina, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Vedi, oggi ti ho proposto la vita e la felicità, la morte e la sventura. Perciò ti ordino oggi di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie e di osservare i suoi precetti, i suoi ordini e i suoi decreti. Allora tu vivrai, ti moltiplicherai e il Signore tuo Dio ti benedirà sulla terra verso la quale tu vai per conquistarla. Ma se il tuo cuore si svia e non ascolti, se ti lasci trascinare e ti prostri davanti ad altri dei e li servi, oggi vi dichiaro: perirete di certo e non prolungherete i vostri giorni sulla terra verso la quale tu vai attraversando il Giordano per conquistarla. Prendo a testimoni contro di voi oggi il cielo e la terra. Ti ho proposto la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, ascoltando la sua voce e aderendo a Lui. Perché Lui è la tua vita e la lunghezza dei tuoi giorni, perché tu possa dimorare sulla terra che il Signore ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe, di dare loro. Mosè andò e rivolse queste parole a tutto Israele. Disse loro: io oggi ho 120 anni, non posso più andare e venire. Il Signore mi ha detto: non attraverserai questo Giordano. Il Signore tuo Dio, Lui lo attraverserà davanti a te. Lui distruggerà quelle nazioni davanti a te e le caccerà. E Giosuè, Lui lo attraverserà davanti a te, come ti ha detto il Signore. Il Signore farà ad esse come ha fatto a Sicon e a Og, re degli Amorrei, e alla loro terra che ha distrutti. Il Signore le metterà in vostro potere, e voi le tratterete secondo il comando che vi ho prescritto. Siate forti, siate valorosi. Non abbiate paura, non spaventatevi dinanzi a loro, perché il Signore tuo Dio è Lui che cammina con te. Non ti abbandonerà e non ti trascurerà. Allora Mosè chiamò Giosuè e alla presenza di tutto Israele gli disse: sii forte, sii valoroso, perché tu condurrai questo popolo nella terra che il Signore promise con giuramento ai suoi padri. Tu la metterai in loro possesso.